Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Taliban officials have struck a tentative deal to open a political office in Qatar. High-ranking Taliban sources have told Al Jazeera that the opening of a representative office in Qatar is conditional on the release of five high-ranking Taliban members from Guantanamo Bay prison in Cuba. Afghanistan, parlano le armi, sussurrano le diplomazie. Come avete sentito, è in previsione l'apertura di un ufficio politico, di un'ambasciata dei talebani per dare l'avvio a dialoghi più costruttivi a Doha. E in cambio i talebani chiedono il rilascio di alcuni prigionieri di Guantanamo. L'anno che si è appena aperto, il 2012, sarà l'anno zero per l'Afghanistan, sarà l'anno della svolta. E verso quale direzione? Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano. Anche la puntata di oggi va in onda grazie a Riccardo Poli e Miriam Lucchetta che sono in redazione, a Pietro Lacorte che mi dà la voce e dà musica e ritmo anche a questa puntata. Le coordinate per interagire con noi sono 349-238-6666 per gli sms, la mail è nessunluogo@radio24.it e la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano. Che cosa significa l'apertura di un'ambasciata, di un ufficio politico? Quanto andrà a legittimare i talebani? Quindi questa apertura di questo ufficio in Qatar segna davvero un cambio di passo in quella che è stata una lunga guerra in Afghanistan. Giro immediatamente la domanda a Fausto Biloslavo, inviato di guerra proprio in quel paese. Fausto, buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, che cosa significa questa apertura di questo ufficio politico, di questa ambasciata? Significa che è l'inizio di una trattativa, un negoziato, vedremo quanto serio, fra i talebani e gli occidentali sul futuro dell'Afghanistan, e questo è un simbolo, diciamo, insomma, ecco, è la partenza. Tra l'altro hanno scelto in Qatar perché i talebani sono sempre stati buoni amici degli arabi del Golfo, la prima ambasciata dell'Emirato Islamico talebano dopo il Pakistan è stata aperta negli Emirati Arabi, appunto, e l'hanno scelta lì perché comunque gli arabi sono anche buoni amici e alleati, gli arabi del Golfo, degli americani, insomma, e quindi è un ottimo compromesso. In più tagliano anche fuori il Pakistan, vedremo dopo magari se questo è un bene o un male. Certo. E soprattutto anche lo stesso presidente Karzai, che invece voleva aprire appunto questo ufficio di rappresentanza addirittura in Afghanistan, e all'inizio, quando si ventilava l'ipotesi del Qatar, ha addirittura ritirato l'ambasciatore afghano da Doha. Ecco, del ruolo di Karzai, di quanto si sia piccato per le volte innumerevoli negli ultimi mesi in cui è stato scavalcato invece dalle potenti diplomazie statunitensi ma anche tedesca, parleremo dopo. Adesso facciamo il punto sui numeri, sulle truppe ISAF che si stanno ritirando dal paese, e l'anno zero, quello vero, sarà poi il 2014. Ascoltiamo. Il segretario generale della NATO, Rasmussen, ha dichiarato ufficialmente il 6 ottobre 2011 che entro quest'anno la NATO procederà al ritiro di decine di migliaia di soldati dall'Afghanistan. Il progetto consiste nel ritiro totale della missione ISAF entro la fine del 2014, data prevista per la consegna della responsabilità della sicurezza alle autorità locali. Il rientro delle truppe è previsto a scaglioni. Gli Stati Uniti riporteranno in patria oltre 90.000 dei 130.000 soldati presenti in Afghanistan, seguiti da Gran Bretagna, Francia e Germania, i paesi con il maggior numero di militari presenti sul territorio. Secondo fonti dell'Alleanza, 500 soldati britannici sui 9.500 schierati dovrebbero rientrare entro l'estate 2012, insieme a 500 soldati tedeschi sui 5.000 presenti e a un migliaio di francesi su un contingente di 4.000. È previsto un primo rientro delle truppe spagnole, polacche e belghe, anche se per questi paesi non sono ancora state indicate delle cifre precise. L'Italia, che già aveva annunciato nel 2011 il graduale ritorno del contingente formato da 4.200 militari, ha confermato che a partire dalla seconda metà del 2012 è prevista la progressiva diminuzione dei militari dalla provincia di Herat, ritiro che sarà accelerato nel 2013 per arrivare al 2014 con il paese restituito al controllo del governo afghano. Un ritiro del contingente ISAF che non impedirà a Washington di mantenere in Afghanistan alcune migliaia di militari almeno fino al 2024. Questo per rendere possibile la transizione e il potenziamento dell'esercito e della polizia afghana, destinati a raggiungere tra 3 anni rispettivamente 240.000 e 160.000 unità. Una forza di 400.000 unità, quindi, già però minata dalle diserzioni, oltre 30.000 solo nel 2011, e che per questo dovrà continuare ad essere rifornita, stipendiata ed equipaggiata anche dal 2015 in poi. Il presidente Hamid Karzai a Bonn nel dicembre 2011 ha avvertito che gli obiettivi comuni di un Afghanistan stabile e che si regga sulle proprie gambe sono ancora lungi dall'essere raggiunti, e se si perde questa guerra i talebani possono tornare, come prima dell'11 settembre 2001. Forse l'accordo raggiunto a inizio 2012 sulla creazione di un ufficio politico dei talebani afghani nel Qatar prelude a più ampi negoziati in un Afghanistan senza forze ISAF sul territorio. E quindi operazioni militari che sul terreno andranno avanti, lo avete sentito, e allo stesso tempo intense attività diplomatiche appunto tra i talebani, gli Stati Uniti soprattutto, l'anno scorso, negli ultimi mesi dell'anno scorso con la mediazione della Germania, con questo scavalcamento di Karzai che appunto non l'ha presa molto bene. Fausto Biloslavo, questa doppia faccia della guerra afghana, questo fatto per cui quasi questo atteggiamento schizofrenico, per cui da un lato parlano le armi, da un lato ci sono contingenti militari che si muovono sul terreno e dall'altro c'è una diplomazia che si muove frenetica, quanto sarà efficace la diplomazia? Quanto questa apertura dell'ufficio diplomatico in realtà farà tacere quelle armi sul terreno? Ma ricordiamoci però che se i talebani in qualche maniera sono scesi a patti, anche se continuano a smentire che ci siano negoziati veri e propri, è anche perché lo scorso anno gli americani hanno catapultato 100.000 uomini in Afghanistan, che adesso cominceranno a ritirare, forse un po' troppo in fretta, forse perché Obama già guarda alla rielezione, cioè il Presidente degli Stati Uniti. Ma quindi insomma, come dire, la forza delle armi è servita anche a dar fiato alla diplomazia. La diplomazia che però in un paese come l'Afghanistan si muove sempre un po' a tentoni, non possiamo dimenticare la figuraccia che hanno fatto gli stessi americani nel novembre 2010 quando si sono affidati a quello che io chiamo l'Alberto Sordi dei talebani, che si è presentato come emissario Mullah Omar, in realtà poi è scappato con la cassa, con i soldi che gli avevano dato per cercare di convincere altri comandanti talebani al negoziato, insomma, quindi insomma era cominciata male, adesso sta proseguendo meglio, ma il problema, come ha detto il generale Petraeus, che ha comandato le truppe in Afghanistan, è che bisogna fare l'accordo col nemico, perché con gli amici gli accordi li abbiamo già fatti, si fa col nemico che ha le mani sporche di sangue. Il problema è quanto i talebani interpreteranno queste aperture negoziali, questo ritiro che assomiglia magari a una precipitosa fuga, anche se ci sono ancora 2 anni davanti, quanto lo interpreteranno insomma per quello che è, cioè nel senso non è che molliamo l'Afghanistan completamente al suo destino, almeno lo spero, insomma, e quanto invece penseranno: benissimo, adesso abbiamo vinto. Allora, 349-238-6666 se volete via sms fare domande a Fausto Biloslavo, che citava giusto pochi secondi fa di questo ritiro affrettato dall'Afghanistan. Alcuni analisti hanno messo in luce che l'annunciato ritiro, fra l'altro averlo annunciato molto tempo prima di compiere il ritiro sul terreno, ha indebolito certe strutture messe in campo dall'ISAF, ha messo anche ad esempio alcuni capi villaggio in situazioni non proprio piacevoli, magari quei capi villaggio che avevano stretto accordi con le truppe straniere presenti sul terreno, di collaborazione in qualche modo, e che adesso però si troveranno nel giro di 2 anni da soli a fronteggiare poi la minaccia talebana. Quanto è stato affrettato questo ritiro e quanto, diciamo, questa logica forse un po' affrettata, un po' benefica, insomma, potrà causare problemi, Fausto? Ma causerà problemi soprattutto se l'Afghanistan non riuscirà ad andare avanti con le sue gambe. Per il momento sta dimostrando che ci sono ancora, insomma, tanti passi da compiere, prima di tutto sulla governance, sullo stesso governo, uno dei più gravi problemi degli afghani, del popolo afghano, dopo la sicurezza e la corruzione e la giustizia che non è giustizia ma ingiustizia, e l'esistenza stessa dello Stato, soprattutto nelle zone rurali, soprattutto nelle zone ovviamente dove c'è l'insorgenza talebana, insomma. E quindi sarà questo il punto, questa la vera sfida, e ovviamente un governo, un paese, uno Stato non si può sorreggere da solo in una situazione di guerra, di conflitto, seppur totalmente asimmetrico come è quello attuale in Afghanistan, senza delle forze di sicurezza degne di questo nome. A fine 2012 gli americani e gli afghani annunciano che ci saranno 353.000 uomini fra agenti di polizia e soldati, forse l'esercito afghano è più serio, la polizia è molto più corrotta, è meno affidabile, ma dico, quanti di questi 353.000 uomini sono pronti a combattere nel 2014 al posto degli occidentali per difendere Kabul dai talebani se sarà necessario? È un bel punto di domanda. Certo, un altro punto di domanda ce lo fa un ascoltatore sulla nostra pagina Facebook che dice, ha un dubbio sui numeri, le diserzioni, dove vanno questi disertori esperti di pratiche militari? Potrebbero, ci chiede, finire nelle fila, tra le fila dei talebani? Ma gran parte delle diserzioni in realtà sono dovute al fatto che questi disgraziati vengono arruolati e si arruolano per sbarcare il lunario, fondamentalmente perché la paga è relativamente buona, ovviamente per i parametri afghani. Spesso però vengono sbattuti da un'altra parte del paese rispetto a dove sta la propria tribù, il proprio clan, il proprio villaggio, la propria famiglia, e quindi hanno grosse difficoltà addirittura talvolta anche a far arrivare i soldi che guadagnano. Spesso le diserzioni sono momentanee, nel senso che questi tornano a casa, che ne so, da Herat, devono tornare dall'altra parte del paese, nel Badakhshan, tornano a casa per portare anche i soldi e poi si fermano un po' di più e tornano al proprio reparto dopo un mese, anche perché non è molto facile girare per l'Afghanistan, certo. Le strade sono poche e solitamente anche un po' infestate dai talebani, certo. Quindi insomma non è che tutti sono grandi esperti militari che passano dalla parte del nemico, ce ne sono alcuni, ce ne sono molti anche infiltrati che hanno fatto anche dei grossi danni, che al momento buono hanno sparato ai soldati della NATO, compreso i nostri, sul nostro fronte nord a Balabugab, e ne hanno ammazzati parecchi, e poi appunto hanno gettato la maschera perché erano dei talebani infiltrati. Certo, c'è una figura che sta giocando un ruolo molto discusso, che da tempo ormai, che è il presidente Karzai, attorno al quale è stata fatta terra bruciata. L'anno scorso è stato l'anno sorribilis per lui, perché gli è stato ucciso il fratello, due tra i più stretti collaboratori, e poi è stata anche la volta dell'ex presidente Rabbani, e molti analisti dicono che ormai Karzai sia nel mirino da tempo e sia questione di tempo. Più volte accusato di essere semplicemente un fantoccio nelle mani degli Stati Uniti, che ruolo può giocare Karzai anche in vista di questa apertura dell'ufficio diplomatico dei talebani? Riuscirà a riguadagnare una sua presenza, no? una sua ribalta politica? Cerca semplicemente di non sparire, no? Di non affogare, e dice non fate l'onda, insomma, ecco, cioè, ricordiamoci che tra l'altro suo fratello potentissimo nel sud del paese è stato ucciso, lui stesso ha subito diversi attentati, e quindi non vorrei che sia anche un po' un morto che cammina, e soprattutto appunto se magari in un futuro, quando uscirà di scena, non lascia l'Afghanistan. E d'altro canto lui è stato al potere per 10 anni e non è riuscito a imprimere quella svolta che il popolo, che era necessaria per l'Afghanistan, che il popolo anche chiedeva. Adesso cerca semplicemente di riciclarsi in qualsiasi maniera, anche aprendo forse anche troppo e a dismisura ai talebani, e soprattutto cercando di non farsi soffiare dagli americani e dagli occidentali, e l'arma potentissima del negoziato, della trattativa, che quindi può significare tante cose, anche un suo ruolo, diciamo, con una super parte, o comunque un suo ruolo da intoccabile nel futuro dell'Afghanistan, cosa di cui appunto dubito fortemente. Penso semplicemente che dovrà uscire di scena e magari per salvarsi la pelle lasciare anche il paese. Nessun luogo è lontano. Riuscirà la diplomazia, gentili ascoltatori, a fare quello che non sono riuscite fino adesso le armi, a dare stabilità e a pacificare, a far camminare un paese sulle proprie gambe? Stiamo parlando dell'Afghanistan. 2012 sarà l'anno zero, sarà la svolta per questo paese. Stiamo ragionando su quella che è la notizia di queste ore, che è l'apertura di un ufficio politico dei talebani a Doha, in Qatar, e quindi che cosa accadrà a questo paese con questa apertura dei talebani, così, diciamo, alla luce del sole, perché è vero che dialoghi e contatti ce n'erano stati. Siamo con Fausto Biloslavo, inviato di guerra e profondo conoscitore dell'Afghanistan, a cui rivolgo l'ultima domanda prima di lasciarlo al suo lavoro, e l'ultima domanda è questa, più prettamente militare e strategica. Quando le forze ISAF lasceranno il territorio afghano, ci sarà un esercito governativo, una polizia afghana deputata alla sicurezza e al controllo. Ce la faranno contro le forze talebane? Cioè questa bilancia di forza, questo braccio di ferro pende da qualche parte? Devono farcela se non vogliono soccombere. Io penso che però i talebani saranno abbastanza intelligenti di cercare di conquistare il potere prima con le buone, eventualmente dopo con le cattive. Ricordiamoci che noi, anche se ce ne andiamo nel grosso delle truppe nel 2014, continueremo a pagare questi 350.000 soldati e agenti di polizia afghani fino al 2025, circa 10 miliardi di dollari l'anno, che è poco rispetto a quello che spendiamo adesso, ma io penso che in realtà le forze della NATO non se ne andranno mai, soprattutto gli americani, completamente dall'Afghanistan. Le grandi basi come Bagram, come Shindad, sono strategiche e resteranno in qualche maniera in mano agli americani. Certo, gli americani staranno dentro le basi, sarebbe curioso, sì, se i talebani stessero fuori e magari al potere a Kabul. Grazie allora Fausto Biloslavo per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. E in questo quadro diplomatico, strategico e militare c'è l'Afghanistan, c'è un paese, c'è una capitale, Kabul, che vive, cresce, vive, a volte sopravvive e partorisce fenomeni come questo. Che si chiama Afghanstar, che è fondamentalmente l'X Factor di Kabul, che è un programma televisivo che incolla milioni di occhi davanti al piccolo schermo ogni settimana. E poi nell'Afghanistan di oggi ci sono aspetti come quello culturale, quello della diffusione dei libri. Ascoltate, a proposito, il racconto di Abdel Wahid Wafa, che è fondamentalmente un bibliotecario itinerante. Publish the very easy read books for Pubblichiamo le letture base per l'educazione delle comunità e attraverso questi libri diffondiamo tra la gente informazioni sulla nascita dello Stato afghano attraverso differenti temi. Lo facciamo sia con chi sa già leggere, sia con chi sta iniziando a leggere e a scrivere. Abbiamo iniziato il progetto delle Library Box nel 1996 a Peshawar, in Pakistan, fuori dall'Afghanistan. A quel tempo lavoravamo per le comunità migranti. Nel 2005 abbiamo portato il programma anche in Afghanistan e ora abbiamo più di 200 librerie comunitarie in 31 province del sud dell'Afghanistan. Durante il periodo del governo talebano avevamo altri progetti in Afghanistan, perché non siamo governativi o politici. Non abbiamo mai avuto problemi anche sotto il loro governo. Ora si sta parlando del ritiro delle forze internazionali dall'Afghanistan, non solo da Kabul. La più grande paura tra la popolazione afghana, non solo per noi che lavoriamo con l'educazione, è che la questione sulla sicurezza peggiori. La sicurezza è il tema principale. Sicuramente alcuni risultati raggiunti negli ultimi 10 anni con l'aiuto delle forze internazionali, come il rafforzamento del ruolo della donna e delle comunità sul territorio, sono a rischio. Se le cose cambieranno improvvisamente in peggio e tornerà lo stesso potere talebano che c'è stato dal 92 al 96, avremo un enorme impatto e vivremo una sorta di ritorno al passato. Quindi la paura più grande riguarda la sicurezza e poi se ci sarà un ritorno al passato dei risultati degli ultimi 10 anni raggiunti grazie all'aiuto dell'ISAF. I tanti aspetti della vita culturale dell'Afghanistan che continua, nonostante vi siano appunto operazioni militari in corso, l'aspetto della sicurezza pare essere quello che preoccupa di più questi operatori culturali. Che cosa accadrà al paese con il ritiro completo delle truppe ISAF? Un osservatorio privilegiato ce lo garantisce Susanna Fioretti, che è cooperante di Croce Rossa e del Ministero degli Affari Esteri ed è anche autrice di Involontaria e conosce molto molto bene l'Afghanistan. Susanna, buongiorno. Susanna, ci sente? Susanna dovrebbe essere in linea, la recuperiamo, ci proviamo. Stiamo analizzando quelli che sono anche gli aspetti di vita quotidiana dell'Afghanistan, che spesso passano in secondo piano. Passano in secondo piano perché le notizie sono pressate da quelle che sono attentati, ordigni improvvisati che esplodono, i contingenti internazionali che tentano di pacificare le zone, e però aspetti come questo che dicevamo, quella della diffusione del libro, che invece sono magari più tralasciati. Vediamo se abbiamo Susanna Fioretti in linea. No, non ancora. Ci riproviamo, andiamo avanti nel ragionamento, perché dicevo, ci sono alcuni aspetti che sono meno indagati perché funziona spesso, anzi quasi sempre, la logica dell'emergenza. Tra gli aspetti meno indagati e più nascosti, se volete, dalla stampa e dai media, c'è quello del mondo omosessuale a Kabul, che è stato indagato da un freelance che si chiama Michael Luongo. You do have in Kabul, because of the interaction between the West and the locals, you do have a developing gay community, a very small developing gay community. Grazie all'interazione con l'Occidente si è sviluppata una piccola comunità gay in Afghanistan. È un fenomeno particolarmente visibile a Kabul, dove alcuni uomini hanno acquisito una consapevolezza omosessuale dopo essere entrati in contatto con la cultura occidentale. Si tratta di persone cresciute in Pakistan, per esempio, di interpreti e impiegati delle ambasciate, che hanno la possibilità di avere a che fare con omosessuali stranieri. Non solo, anche i media occidentali hanno giocato un ruolo importante nello sviluppo di una coscienza gay e nella definizione del concetto di omosessuale. Ci sono poi uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, ma che non si definiscono gay perché tali relazioni fanno parte della cultura afghana. Allo stesso tempo esistono anche persone che scoprono di essere diverse, di non volere un matrimonio e dei figli, come la maggior parte degli afghani, proprio grazie a questa compenetrazione tra culture. I think that it'll actually be quite bad for anybody who's gay in Kabul. Credo che dopo il ritiro delle truppe internazionali sarà piuttosto difficile per quelli che si definiscono gay, specialmente a Kabul. Sappiamo che tutte le volte che le forze di occupazione lasciano il paese, la situazione diventa molto più pericolosa e violenta. È capitato in India e in Pakistan quando gli inglesi se ne sono andati. È successo anche in Afghanistan. Con il ritiro dei russi è iniziata la fase peggiore della storia della nazione, che ha portato alla guerra civile e all'instaurazione del regime talebano. Credo quindi che si aprirà un periodo molto pericoloso per gli uomini e le donne che si identificano come omosessuali e per quanti si sentono parte di un contesto diverso, cosmopolita e multiculturale. Insomma, da come si vede, la presenza occidentale va a impattare, va a incidere nella vita sociale e culturale afghana, al di là delle operazioni militari che sono sul terreno. E quanto questo ritiro dell'ISAF inciderà sul paese? Di questo ci stiamo interrogando oggi a Nessun Luogo è Lontano. E giro immediatamente la domanda, dicevo, a Susanna Fioretti, che abbiamo raggiunto, che a Kabul in particolare ha fatto progetti sulle donne estremamente mirati, estremamente importanti. Ne cito un paio: una compagnia, una scuola per donne per tagliare le gemme, un progetto su ristorazione e catering e poi una compagnia di taxi tutta al femminile. Susanna Fioretti, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la prima domanda è questo: quanto fa paura il ritiro delle truppe alleate proprio in relazione a tutti questi progetti così importanti per la società afghana? Nell'ambito in cui io lavoro, ossia la formazione professionale, l'educazione delle donne, fa molta paura. Fa molta paura perché uno degli argomenti su cui i talebani non sembrano voler transigere è proprio questo avanzamento, l'emancipazione femminile, e i pochi risultati che sono stati raggiunti finora rischiano di essere compromessi. Sono una buona base per sviluppare in futuro una vera e propria emancipazione, ma sono veramente a rischio. Girando per Kabul, lavorando in Afghanistan, immagino lei abbia, insomma, il polso della situazione, il sentore, la gente per strada, la gente nelle case. Quanto questa paura del ritiro è diffusa non solo tra voi operatori, ma anche proprio tra gli afghani? La paura è molto diffusa a Kabul. Kabul è un po', come Herat, diverso da tutto il resto dell'Afghanistan. Ci sono province dove nessuno di noi entra, dove non si conosce la situazione esattamente. E a Kabul, come città in cui si è andati verso, come lei mi ha menzionato, questi progetti, compagnie femminili di donne, ex donne analfabete che hanno preso in mano la loro vita e sono in grado di gestire adesso una compagnia al femminile, l'unico ristorante dal femminile di Kabul, l'unica compagnia di taglio a gemme, le prime scuola guida di donne. Tutto questo è condizionato alla permanere di una certa libertà che si suppone almeno al 50% svanisca con un eventuale ritorno dei talebani. Ecco, Fioretti, Come la prendono gli uomini afghani rispetto a queste iniziative al femminile, insomma, che prevedono l'emancipazione della donna? Guardi, è molto difficile generalizzare. Comunque il poco che ho capito da una lunga esperienza in Afghanistan, sono lì dal 2002, è che quando c'è un risultato economico, l'emancipazione procede più velocemente. Le faccio un brevissimo esempio: quando noi abbiamo avuto molti casi in cui le famiglie prima hanno osteggiato l'iscrizione delle donne a una scuola di occidentali, a insegnamento di mestieri che sono considerati da uomini, nel senso che nessuna donna l'ha mai fatto, non sono proibiti alle donne, ma nessuna l'aveva mai fatto. Quando si è cominciato a vedere un risultato economico, sia la donna guadagna, è capace di dare un contributo familiare, le cose cambiano, c'è molta più libertà, quindi certe barriere tradizionali sembrano cadere con lo sviluppo economico. Grazie. Allora, Susanna Fioretti, cooperante Croce Rossa e Ministero Affari degli Esteri, autrice del libro Involontaria, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E questo è l'Afghanistan che si sta tentando di costruire, che si sta tentando di far camminare sulle sue gambe senza le stampelle ISAF, che andare al 2014 appunto a un certo punto svaniranno. E quindi il ruolo delle forze governative afghane, il ruolo di questo Karzai, il Muppet, il pupazzo nelle mani degli Stati Uniti, è il ruolo invece dell'ambasciata talebana, che dovrebbe aprire nelle prossime settimane, presumibilmente a Doha in Qatar. E quindi 2012, anno zero per l'Afghanistan, staremo a vedere. Siamo quasi in chiusura, gentili ascoltatori, però volevo segnalarvi, prima dei titoli di coda, sfogliando la stampa internazionale questa mattina c'è un interessantissimo articolo, inchiesta dell'Independent, del quotidiano britannico. Chi ci segue sa che spesso ci siamo occupati di Al-Shabaab, di Somalia, dell'estremismo islamico nel Corno d'Africa e di quella denuncia, di quelle inchieste che vedono molti somali con passaporto britannico viaggiare da Londra a Mogadiscio per abbracciare il jihad, per addestrarsi, e poi la grande paura, il grande timore è il ritorno in Europa per commettere attentati. Ebbene, a tutta pagina, pagina 11 dell'Independent, c'è un pezzo di Jerome Taylor che porta le prove degli estratti video in cui si vede un miliziano di Al-Shabaab in operazioni anche in prima linea, che è quello che poi rilascia le interviste e i video su YouTube firmati appunto da Al-Shabaab, che parla con accento britannico, londinese, inequivocabile, insomma l'ennesima prova, casomai ce ne fosse stato bisogno, che in vista delle Olimpiadi Londra doveva prendere le contromisure necessarie. Titoli di coda. Non mi resta che ringraziare Riccardo Poli e Mira Lucchetti, che anche quest'oggi hanno confezionato la puntata di Nessun Luogo Lontano, Pietro La Corte che le ha dato la musica e il ritmo giusto. Ringrazio voi, gentili ascoltatori, per essere stati all'ascolto. Noi ci risentiamo domani, 13:15, Nessun Luogo Lontano.